ma se per quello, se non avrebbe funzionato, io sarei andato in bottega oggi, avrei preso il compressore, me l'avrei portato qua, me l'avrei portato, avrei messo la pipa, il tubo, diciamo, dentro il tubo che c'è nel muro, l'avrei coperto con degli stracci, eccetera, per non sfiatare da nessuna parte, e avresti visto se c'è un compressore. Anche sì, io l'avevo fatto col compressore lo stesso, però se è bello carico e tanta pressione ci deve essere. Beh, ho otto atmosfere a Puglia, il mio compressore è un compressore piccolino, a 50 litri, però ha 8 atmosfere a Puglia, se. E poi non è che era così, si trattava praticamente di residui, di coso, di liquido, o di quel detersivo liquido che usa per i piatti, no? Ed è quello che ha creato il calcare con Paterocco, c'era 20 anni, meno è che mi non arrivo, e dopo tutto questo tempo purtroppo ha formato una certa incrostazione, ed ecco che l'acido è più d'acqua calda, ha contribuito a liberarlo senza bisogno di usare compressore, se no avrei utilizzato direttamente il compressore, andava bene subito la prima parte. Sì, e poi di bisogno dove c'hai lo scarico, anche appunto la colonna montante, a quanta distanza è, quanta pendenza c'ha il tubo di scarico, se scarica bene, capito? Quello anche vuol dire molto. Anche se oggi con i tubi che abbiamo, questi in PVC, comunque funzionano benissimo. Sì, lo scarico è fatto con quel tubo PVC, ma con quel tubo PVC da 40 mm, ma ha uno spessore di materiale superiore ai 5 mm. Sicché non è come i tubi di una volta, che quando tu sparavi l'aria dentro ti crepava i tubi. Questi non li puoi spaccare, assolutamente li puoi spaccare. E diciamo che il tragitto da dove era la lavatoviglie, dal lavandino, da dove è il lavandino al possesso dove scarica, perché io sto parlando della sabatetta, no? E dunque sono sotto la mia preparare in parte, no? E diciamo che circa più o meno 4.000, 3.500, 4.000, ma non c'è stata così tanta difficoltà. Il problema è che ho dovuto aspettare da ieri, perché l'ho comprato ieri questo coso, e anche questo sifone nuovo l'ho comprato ieri, ma ho preso la fesseria, non è che ho preso, al momento mi è costato più il tangente, perché ho dovuto incollare un tubo per il gomito, ho costato 8,50 euro il tangente, ho il tubetto, tu mi dai, ma cosa ti ne va? E vabbè, ce l'ho, basta, ma mi serviva per incollare, mentre invece tutto il resto tra sifone e liquido avevo pagato 27,70 o 28 euro. Perché non hai quei tubi con le guarnizioni, scusa, appunto, quelli in PVC, perché in quelli non c'è bisogno di tangit, prima si usava il tangit ancora oggi, in quelli modelli arancioni, tipo pesante o tipo leggero che non hanno le guarnizioni, allora si usa ancora il tangit. No, ti spiego, perché siccome lo scarico era un po' lontano dal centro del lavandino, no? Perché quando era stato costruito bene, però poi col tempo ho dovuto spostare i mobili per fare posto a un completamento di mobili nella parete, allora ho dovuto spostarlo, sicché il tubo finale non ci arrivava come coso allo scarico. E allora ho dovuto utilizzare un gomito, ho dovuto utilizzare con un altro spessore che finisce direttamente a muro, capisci? E quello ho dovuto incollare quello, ma poi tutto il resto è tutto avvitato, guarnizioni e tutto quanto, tutto non va benissimo. L'unico cosa che ho dovuto incollare è quello, quel gomito lì, niente di più. Certo. Ma io ci avevo messo il collo flessibile, gli ho fatto il collo d'occa e gli ho messo quello flessibile, perché anch'io non sono perfettamente centrato, da quando ho cambiato la cucina sono un po' più spostato, col buco dello scarico. E allora ho messo quello a collo d'occa, Ma quello flessibile, non so se ce li hai presenti, quelli, quei tubi lì che li pieghi, li fai come vuoi e durano tantissimo. Sì, riconosco quei tubi, li vedono anche come gomiti per impianti elettrici, cioè quelli addirittura. Vabbè, lo stesso sistema, non è che sono proprio quelli da idraulico, ma più o meno sono quelli. Sì, no, questo Simone il colloca ce l'ha, tutto in plastica, niente di particolare, dunque anche se metto l'acido non le fa niente, a parte il fatto che nel lavandino io non ho buttato nemmeno un goccio di acido, perché ripeto, dalla presa che c'è nel muro ho preso un pezzo di tubo da 40 mm, ho preso col gomito, ci ho messo un imbuto sopra, e l'imbuto l'ho fissato al gomito con il nastro adesivo e ho svuotato il liquido nell'imbuto, capito? Dunque non la faccio scendere tutto completamente, io nella bandiera no, perché se butti tu quel liquido nella bandiera, nelle cose cromate, se la cromatura se la cancella, eh? No, beh, certo. Quello sì, anche se lo butti dal lavandino, però non devi sporcare naturalmente il lavandino perché è comunque un acido, ma lo butti nello scarico, aspetti un po' che agisca, poi apri. Di solito a me mi aveva detto così un idraulico di mettere la soda caustica o appunto l'idraulico liquido nello scarico, anche tramite il lavandino direttamente, non c'è bisogno di smontare nulla, capito? Stando attenti naturalmente. E poi mettere il tappo, far scendere l'acqua calda, aspettare un po', 10 minuti, e poi di colpo togliere il tappo e l'acqua calda con la soda caustica o il gel, quello lì fa lo stesso identico lavoro. Sì, ma è così, infatti io avevo chiamato l'idraulico, ma però dice sino alla settimana entrata non ci posso venire perché ho altri impegni, eccetera. E vabbè, ho fatto l'accordo, e mi ha detto, buttate il braccio sul ghiaccio, esattamente, e va bene lo stesso, dice anche io faccio così a casa mia, mi ha detto questo idraulico. E invece poi io, siccome sono andato lì da R, sono andato a comprare questo sifone e l'ho spiegato alla cosa, ho detto che abbiamo noi il liquido adatto per fare cose, tutto quello che è organico te lo scioglie, non c'è problema, per cui va benissimo quello. E devo dire che è anche migliore l'acido muriatico, perché l'acido muriatico quando tu lo versi devi stare attento perché va con degli acidi tremendi, no? A parte questo che mi sono messo la maschera, i guanti di gomma e gli occhiali da lavoro, quelli grandi da protezione industriale, per cui però questo liquido che ho comprato invece non fa nessuno munizioni, niente, ho messo il liquido direttamente nel muto e lo potevo versare anche senza maschera, non c'è problema, perché non ha fatto nessuna evaporazione, a differenza dell'acido muriatico che fa evaporazione, già lo sai, quello è tremendo, no? L'acido muriatico, mamma mia, meglio la soda caustica, naturalmente la soda caustica finché in grani che la butti così non fa niente, ma se tu la respiri durante l'evaporazione, mamma mia, è fortissima, perché l'acqua calda fa come la schiuma, è una cosa incredibile, fa malissimo sia agli occhi che alle vie respiratorie. Sì, già lo so com'è la soda caustica. La soda caustica, io se c'era per dire, non lo so, da smacchiare il legno, sai, a volte il legno, c'era quella verde, quel verde c'era, no, che non riusciva in nessuna maniera, e dunque il legno lucidato poi si evidenziava anche di più il verde che c'era, no, nel legno. Mettevi un po' di quella soda lì e il verde spariva appunto completamente, diventava tutta una tavola compatta come colore, eccetera. Già lo so come funziona, ma ripeto, questo è ancora migliore perché non fa nessuna ebollizione, butti niente, è come che tu stai buttando, che so io, un bicchiere d'acqua dentro, capito? Però poi il lavoro già lo fa a conto suo, lo fa questo, perché basta aspettare una mezz'oretta e dopodiché, vabbè, io ieri ne ho buttato la metà della bottiglia, più o meno dove vai a stare. Allora il bollitore con l'acqua calda ha buttato 4-5 secchi d'acqua calda e si è tutto a un certo momento ha fatto un risucchio, ha fatto, no? E si è liberato completamente. C'è una propagazione allucinante. Sì. Questi detersivi, più capelli, più rimasugli di pasta, come si scola la faccia, oh, yeah. Infatti, è così, poi si sa, sai, aveva preparato probabilmente la pancetta che aveva preparato mia moglie, e sarà stato quello, nonostante che prima di lavare i piatti li freghiamo con della carta, di quella carta da cucina, no? E poi li lava direttamente, perché non, è meglio fare così, a differenza di tanti che si mettono e lavano direttamente nel lavandino, ma così non va bene. Invece tu prima con la carta da cucina, dei piatti e le posate, li freghi e poi quello lo butti nella mondetta, no? È ovvio. E poi la puoi lavare tranquillamente i piatti nel lavandino, ma anche meglio, no? Così il lavandino rimane sempre più pulito, in poche parole. Beh certo, e beh, non puoi buttare con la rimanenza dei piatti così, che te lo intasa subito. E poi oggi tutti hanno le lavastoviglie, ma io non vedo la convenienza di quando si è in pochi, in tipo 2 o 3, come siamo noi, di usare la lavastoviglie. Perché comunque noi che ci vogliamo i 2 piatti attaccare la lavastoviglie, ogni volta. Infatti, perché noi non siamo i 3? Quando avevo che non ci sono invitati, allora il discorso è diverso, però generalmente siamo i 3. Può capitare che sono io la domenica, il sabato, che ci sono degli invitati, allora è diverso il discorso. Però per la famiglia mia va bene lo stesso, anche senza la lavastoviglie, non è che non va bene, però ma quella, visto e considerato che ce l'abbiamo, la usiamo lo stesso, non è che non la usiamo. Però adesso la usiamo in un'altra maniera, magari in un'altra posizione della casa, in modo da evitare un eccesso di schiuma, di detersivi, eccetera, eccetera, capito? Beh sì, perché molti con la comodità appunto della lavastoviglie fanno 3-4 giorni, riempiono fino a riempire la lavastoviglie e poi l'attaccano per fare un lavaggio unico, giustamente per attaccarla per 2 piatti. Infatti è così, tanta gente fa così, anche perché magari puoi mettere 18 coperti, puoi mettere dentro una lavastoviglie e se li lava tutti insieme, certo. Io, mia moglie non lo farebbe mai, anche se c'è spazio nella lavastoviglie, qui danno si raga di dare i piatti e i forchi a lavare tutti insieme, no? Appena mangiato subito di buono si lava, non è che sta lì a pensare alla lavastoviglie. Poi se capita, magari quando è un giorno di festa si può anche fare un lavaggio così con la lavastoviglie. Già molti la utilizzano, già sembra una comodità, però ma tutte le novità poi sono, la lavastoviglie esiste da una vita ormai, Sì, certo, me l'avevamo anni lui, da sempre, praticamente da quando è uscita la lavastoviglie ce l'abbiamo avuta, come tutto il resto, così il frigo, così lo scaldabagno, così, e così le TV, non uno, ho già fatto un raggio di televisione, e un raggio 5 sempre attivi qua in casa, 5, perché ce n'è una in tavernetta, da 40 pollici, mi sembra di 42 là, per esattezza. E poi ce n'è una nella sala, da 55, poi ne ho una nella camera mia, da 28, una ne ha mia moglie, sempre nella stessa camera, da 28, perché lui invece guarda il programma suo, io che guardo lo sport, queste cose qua, che mi volete, e dai che cose non ho mai idea. Quando mi conosco presto mi metto le cuffie sia io lì e così non ci risolviamo a vicenda. Poi c'è anche quello di mia figlia nella camera, mia figlia, la notte vedo tre televisioni, se vedo tre televisioni. televisore accesi, no? Però premesso che la mattina il televisore qui si accende intorno alle 9 fino alle, all'ora di cena, dopo cena poi si accendono quelli delle stanze, hai capito? Ormai sì, è vero. Sì, anche vabbè, qua ne abbiamo due, una in sala e una in camera da letto. Il televisore, poi una la sto usando la 32 pollici come monitor per il computer, però è una televisione, stesso. Una villaggio soffitta che la devo riparare, già cambiare la scheda che costa 20 euro la scheda. Però i camari, noi che venisiani, questa camera, la cameretta, e camera da letto, noi sia grande la casa, capito? La sala, cucina e bagno. Sì, poi ne ho una portatile io, si può mettere anche in macchina o dove vuoi tu, con un antennino magnetico, lo metti sulla cappotta, lo metti che so io, se lo vuoi usare a casa, la metti attaccata alla parete, vicino alla finestra, la metti, piccolina, questo qui è una televisione che è di 14 pollici praticamente, la grandezza quant'è? Saranno, non lo so di preciso, 35 centimetri, aspetta, ti faccio una fotografia, te la mando e te la faccio vedere. Sì, le hanno fatte anche per le macchine, per la macchina. Le televisioni 12 volt con il digitale integrato, antenna, tutto pronto all'uso, come abbiamo fatto gli stereo, con quel frontale che si apriva grande, che fa da televisore. Aspetta che ti mando la fotografia. Fai. Te l'ho mandata, eh? Ah, sì. L'ho visto. Se vede bene, tutti i canali, come la televisione grande, prendi tutto indistintamente, tutti i canali assolutamente. Funziona la batteria oppure funziona con l'alimentatore, ha l'alimentatore come può essere l'alimentatore del telefonino o del tablet, dai. Funziona così. E poi ha questo antennino che è un'antenna piccolissima, aspetta ti mando la fotografia per vederla. Di solito prima si mettevano, usavano tipo un dipolino era, per queste robe qua, un dipolino piccolino, forse 6-7 centimetri. Su progresso! Guarda che ti ho mandato la fotografia dell'antenna, sarà alta 10-12 centimetri, compresa la base. Sì, la famosa DVB di T dovrebbe chiamarsi. Sì, ma ripeto, abbiamo fatto anche un dipolino che funzionava comunque bene. Perché se oggi dovevano avere il digitale integrato, eccetera. E quanto è grande? 14 pollici quel televisore. Sì, 14 pollici, aspetta, ti dico più o meno così a parli, ti dico quanti centimetri può essere. Ma si può collegare anche. Si può usare come monitor di computer, che collegamenti ha dietro? VGA, che cos'ha? La grandezza è 40 più o meno, 40 per 25, una cosa del genere. 40 centimetri? Aspetta, è manna, eh! È grande, allora, ti sto dicendo che si vede benissimo, cos'è che devo dire benissimo? Tu se vuoi, se te la prendi anche al muro, dove ti pare ti piace, o te la metti sulla pancia, sei quali cazzo per dire, te la metti sulla pancia, attacchi l'antenna, puoi mettere anche l'antenna esterna della televisione normale, non c'è problema, e si vede benissimo. Ascolti, ma siccome sto cercando un altro monitor per mettermelo di fronte qua, per usarlo come monitor di computer, siccome non mi ci sta qua dentro, perché tu lo sai come ho fatto questa cosa, no? Questo mobile, da metterci qua dentro però, e sto cercando una cosa del genere. Questo è per un televisore vero, nel vero senso della parola. Non lo so, penso che vada bene ugualmente, anche per computer, non te lo so dire. Ma evidentemente ci sono, presente ce l'hai un computer, la grandezza di un computer normale, quello da tavolo, normalissimo, ecco, più o meno la grandezza è così. Sì, sì, sì, sì. Quello. Ma lo stai vendendo quello? Bravo, che me l'hanno regalato a Natale, me l'hanno regalato. Me l'hanno regalato uno grande e uno piccolo, cioè mia figlia me l'ha regalato. Siccome quello che avevo io nella camera mia ormai era sfocato, no? Che poi ce l'ho sempre, però è sfocato, funziona ma è sfocato, non si vede un granché. Allora a Natale mi ha regalato un televisore nuovo, ma se l'ha regalato è più quello, due me l'ha regalato, viste lì, quello grande sai invece com'è, siccome non c'era la presa per l'auricolare, c'è una presa ottica, dunque ho dovuto richiedere da fuori un adattatore giusto per la presa ottica del televisore, con una cuffia meravigliosa, veramente bella, bella, bella, che senti che è una bellezza l'armonia di questa cuffia quando, come si sente. Dunque con quello ho fatto tutto l'adattamento e sento benissimo in cuffia, sento, capito? Senza bisogno di fare niente, non deve regolare niente, né aumentare né abbassare. Il volume ce l'ho nella cuffia direttamente, capito? Perché il televisore, essendo cosa ottica, uscita ottica, poi posso usarla anche in entrambe le versioni. Se tu ad esempio vuoi ascoltare, ascolta, ma se io non la sento, mi metto la cuffia e la uso nelle due versioni, no? La uso. Uso quella cuffia ed è meravigliosa come la sento. Sì, sì, no, perché io ne sto cercando uno per qua dentro, però mi serve massimo alto 25-26, poi larghezza anche 80, e l'altezza, capito, perché questi sono due ripiani. Mi guarda quel video che ti ho mandato, sì, quella per te lo stesso sarebbe una comodità, quella roba lì. Aspetti, mando anche l'altra foto per farti vedere come la faccio funzionare. Questo te lo sto dicendo, è una meraviglia, è a batteria. Sai, sono televisori adatti per il campeggio, no? Te li metti nel rullotto, cioè nel teleporto così, o addirittura sei seduto in poltrona davanti alla riva al mare, te lo porti lì e te lo guardi così, te lo metti sulle gambe e te lo guardi lo stesso, capito? È meraviglioso veramente, è leggero e tutto, sottilissimo, sottilissimo, quella sarà di spessore, saranno sì e no, al centro, la parte più grossa sarà 3 cm nemmeno. Sì, sì, sì, li hanno fatti ormai per le macchine anche, per le macchine che funzionano 12 volt, o hanno la batteria integrata anche, o per il camper, per le roulotte, sì, sì, sì. L'hai visto quel video che ti ho mandato? Aspetta, sto cercando l'accessorio, dove cavolo l'ho messo? No, non l'ho visto, adesso lo guardo. Jake in the Carolinas car. 148, he's coming through the Carolina Hills. Has been a while, how have you been doing that? You're having a great weekend out there. Next time, next round's on me. God bless you, Jake. We're standing by in the Carolinas. Hai capito Giulio come il funzionamento? Anche quella che tu va benissimo, anche quella lì, perché quella lì come questa qui fa da radio, fa da colonnina, capito, ascolta la musica, è una radio colonnina Bluetooth però. E guarda, guarda che te l'ho mandato, che ce l'ho io, simile a quello, uguale. Ah, ce ne ho due, l'altro è giù. Te lo manda, questo qui fa da tutto, tutto, col telefono, posso parlare direttamente a viva voce col telefono, posso parlare. Oppure lo posso attaccare come cuffia al baracchino, ho un'amplificazione come quello di esterna, capito? È una meraviglia, veramente, fortissimo. Allora, a me ne hai mandato una che sarebbe la colonnina, che credo che sia il modello che fa anche la radio. Mi hai mandato solo quella foto lì a me, giusto? Ti ho mandato quella che era una radiolina, quella fa il rotondo, quella oggettino rotondo, è una radio, ed è un Bluetooth quello lì, che quello ho interfacciato col telefonino, io posso fare le telefonate, schiaccio il busantino e ti parlo a distanza, ti parlo, senza toccare il telefonino in mano, capito? Come perché lo posso usare anche in macchina, no? Come per avere, per dire, la possibilità di parlare in macchina guidando senza avere il telefonino in mano, capito? Sì, sì, sì, è come questa che c'ho io, Giulio, ma quello che ti sto dicendo io, se tu vuoi ascoltare la radio HF, la radio o il maracchino, ti serve quell'altro accessorio che è il trasmettitore, ok? Perché la colonnina che hai tu, quella lì, ti fa da ricevitore, ok? Puoi fare col telefonino, ma il CV o l'HF non ce l'ha il Bluetooth, perlomeno questi modelli qua, capito cosa ti voglio dire, Giulio? No, questo si può attaccare direttamente alla presa dietro dove si attacca la cuffia, dunque posso avere l'uscita anziché dal baracchino direttamente sul Bluetooth, capito? Tu già ho capito, quella che è la cuffia che sto dicendo, quella è quella a distanza addirittura, ma quella è un'altra ancora, che ne ho una cuffia io, che c'è il trasmettitore, che l'avevo incollata al tavolino, quello l'avevo incollata, no? E mi spostavo per tutta la casa, andavo anche fuori per strada, fino a una distanza di 200-300 metri, tu parlavi e io ascoltavo il baracchino senza nessun problema. La notte, ad esempio, quando buttavo la mondetta ai tempi delle cassoni che c'erano per strada, mi portavo quello, c'era questo e io con le cuffie ascoltavo il baracchino, capito? Sì, sì, ma di questo non c'è bisogno di aprire, guarda, ti ho mandato i collegamenti che c'ha dietro, che in questa puoi mettere una micro SD per ascoltare la musica, anche c'ha un attacco USB, c'ha l'attacco per il telefonino per caricarla e c'ha l'attacco per usare anche delle cuffie. Però questa, ok, la col suo trasmettitore, che è quell'apparecchietto che ti ho fatto vedere, lo collego all'attacco jack della radio, delle cuffie appunto, e lui trasmette l'audio alla mia colonnina, che io potrei essere appunto in terrazzo, in sala e così via, senza bisogno dell'utilizzo di stare davanti alla radio per forza per ascoltare l'audio, ecco. Sì, sì, ho capito, no, questo è lo stesso, ha l'attacco USB, certo, che ha l'attacco per le cuffie e ha l'attacco per la ricarica, perché è ricaricabile, no, con l'alimentatore del telefonino si ricarica così, oppure con l'alimentatore da accendisigari della macchina, se io voglio, per dire, quando esco in macchina, prendo e mi metto quello, mi metto, no, lo tengo acceso, magari con l'alimentatore inserito direttamente alla cosa dell'accendisigari, tu mi chiami al telefono e io ti rispondo direttamente da lì, senza toccare il telefonino in mano, capito? A viva voce, così come le macchine moderne che hanno un impianto già predisposto, no? Come c'è nell'altra macchina nuova che abbiamo, in quella mia no, non ce l'ho, però posso usare quello e mi fa da viva voce lo stesso, praticamente la Bluetooth col telefonino. Sì, sì, esatto, è così, è così, a te ti serve appunto, se lo vuoi usare, se vuoi ascoltare il maracchino giù, quando sei giù per non stare per forza su davanti alla radio, quell'apparecchietto che ti ho mandato il video o la foto, non so cosa, che costa 10 euro su Amazon, io l'avevo preso su Amazon, quello lì ti danno sia il coso per caricarlo, perché c'ha la sua batteria interna, sia il cavetto, il doppio jack, sia il cavetto USB, tu non fai altro che collegarlo all'attacco del baracchino, della cuffia o della cassa esterna, e lui, e ti prendi la colonnina, poi quella colonnetta che tu te la porti dove vuoi, ecco, perché il baracchino tu lo ascolti così senza bisogno di starci davanti. Sì, sì, beh, certo che sì, quello sì, lo so, anch'io per quello me lo posso portare a casa, me lo posto da una camera all'altra. macchina per parlare al telefono senza bisogno di avere il telefono in mano, schiaccia il pulsante e parla direttamente. Aspetta, ti mando la fotografia. Sì, sì, ma stiamo parlando di due cose diverse, Giulio, capito? Quelli esistono già da tanti anni. Metti il Bluetooth nel telefono e si connette alla colonnina, guardi, ascolti la musica, rispondi al telefono. Sì, sì, quello esiste da tanto tempo ormai. Ma io ti sto parlando per ascoltare l'audio del baracchino con la colonnina Bluetooth. Ecco cosa ti sto dicendo io. Appunto, io ascolto l'audio del baracchino, l'attacco col cavo, perché c'è il cavo suo, no? L'attacco direttamente alla presa dove si attaccano le cuffie e sento il baracchino, lo sento da questo Bluetooth, capite? Sì, ma ci devi stare davanti. Come col cavo? Io questo non è a cavo, questa colonnina, no? La colonnina io me la porto in giro per la casa. Attacco l'apparecchio, il trasmettitore al baracchino, capito? Non ne ho cavi. Cioè il cavetto che devo, giustamente l'apparecchietto va collegato al baracchino, quello sì. Però non ci devo stare davanti. Sì, io ci devo stare davanti, per ascoltare. Però ho anche un altro tipo di cuffia. La cuffia che è alimentata con la sua batteria, poi c'è un trasmettitore, c'è quello, va attaccato per dire alla cuffia dell'auricolare del baracchino o della radio o della televisione, e io con le cuffie me ne vado in giro anche a 200 metri di distanza da casa e sento quello che stavo ascoltando con il baracchino o con la radio, capito? Ho anche quel tipo di cuffie lì. Esatto, quel trasmettitore lì dovrebbe, se è un trasmettitore Bluetooth, dovrebbe connettersi anche a quella colonnetta lì, perché? Per non obbligarti a stare con le cuffie, perché tu mi stai dicendo che hai l'apparecchio, il trasmettitore con le cuffie, ma se io non voglio stare con le cuffie perché sto facendo della roba in casa e non devo stare per forza con le cuffie a ascoltare, la colonnina io la appoggio sul tavolo e faccio quello che devo fare, e automaticamente ascolto, sicché quel trasmettitore che hai tu delle cuffie dovrebbe connettersi per forza, perché è un trasmettitore Bluetooth, alla colonnetta che mi hai mandato la foto, capito? Non c'è bisogno neanche che utilizzi più le cuffie. No, dal baracchino non posso farlo quel discorso, però per dire, se io voglio telefonare con quello, me lo prendo, me lo porto appresso, il telefonino lo lascio in una stanza, me ne vado casa e la telefonata la sento lo stesso e ci posso parlare, capito? Mentre invece per il baracchino ho bisogno del collegamento, se no non posso sentirlo a distanza. E che collegamento è, scusa Giulio, non ho capito, ma tu non hai due accessori, hai le cuffie Bluetooth senza fili, ok? E lì ci siamo. Poi hai il trasmettitore, che è il trasmettitore delle cuffie, che è un accessorio come quello che ti ho mandato io sicuramente, e attacchi al baracchino, giusto? Allora, quel coso lì, quel Bluetooth che ho io, funziona così. Se lo voglio ascoltare alla radio, dalla radio o dalla televisione o dal baracchino, devo esserci presente davanti, perché ci vuole un collegamento, un radio tipo cuffie, dietro bisogna attaccare alla presa delle cuffie. Però se devo telefonare, allora io faccio il numero, ti chiamo e lascio il telefono appoggiato dove mi piace e me ne vado in giro alla casa e ti rispondo anche dalla parte di bassa della casa, capito? Perché è interfacciato col telefono, capito? Però funziona anche la cuffie, come ti stavo dicendo, nel baracchino, nella televisione, in qualsiasi stereo, qualsiasi radio, eccetera eccetera. Però questo è una radiolina, cioè che fa da FM, una radiolina FM, però ha tre funzioni: funziona col telefono, con la radio e con un'altra cosa che non ricordo nemmeno che cosa è, penso un po'. Sì, perché è un ricevitore Bluetooth, il ricevitore Bluetooth, quella colonnina lì, come questa, io ne ho due di queste. Che l'avevo comprato mio figlio, sai, quando erano i colonnini, ha zuccato, tandà, suonavano che è una bomba. e era uscita la moda di queste colonnine che loro tramite il telefono, appunto del Bluetooth, ascoltavano con questa colonnina qua. E... però quello che ti voglio dire io, tramite quel ricevitorino, quel trasmettitore, non ricevitore, che hai visto, che ti ho mandato, quello lì tramite il suo cavettino non ha fatto che collegarlo alla cuffia, all'attacco della, del baracchino, poi prendi la tua colonninetta, quella piccolina che è tu, te la porti in giro per la casa e riesco che ascolti alla stessa identica maniera la radio, senza bisogno di starci davanti, hai capito cosa ti voglio dire? Per cosa ti ho detto, ma sei sicuro che quel trasmettitore che è tu, collegandolo al baracchino, per forza ti deve funzionare anche in quella colonnina che hai tu Bluetooth, perché è un trasmettitore Bluetooth, sei sicuro che non funziona? Mi sembra strano. Quello non ho mai provato se funziona così, anche perché io quel tipo di collegamento lo faccio con le cuffie che ho proprio, mi metto dentro le cuffie, quelle a padiglione normale, no, cuffie normali di musica, e quello lì c'è il trasmettitore, il trasmettitore è attaccato alla radio o al baracchino o qualsiasi altro strumento, e io accendo sia quello delle cuffie che quello del trasmettitore, sono alimentati tutti e due a batteria oppure elettricamente il trasmettitore, si possono mettere anche elettricamente, non c'è problema, e con le cuffie io ascolto anche a 200 metri, anche a 300 di distanza da casa, capito? Tutto lì. Però non so se c'è la possibilità di attaccare questo che ti ho mandato io adesso, questo Bluetooth piccolino, di attaccarlo anche al trasmettitore, non lo so se si può mettere o a qualche altra cosa, non lo so, non l'ho mai provato, non lo so. Allora, sì, lo sto guardando in questo momento. Dunque, questo qua, per caso, adesso dalla foto non riesco a vederlo, ha per caso l'attacco jack, che puoi attaccare il 3,5 mm, diciamo? Certo che ce l'ha, perché io posso attaccare questo al baracchino, poi se voglio mi attacco le cuffie a quel coso lì, mi attacco, capito? E dunque, però, che senso ha? Di ascoltarmi le cuffie, ascoltare il cuffio, quando se lo metto per avere una colonnina esterna, no? Tanto male, mi attacco le cuffie direttamente al baracchino e basta, non se ne parla più. Però questo, siccome è una radio, perché è una radio quella, se io voglio ascoltare la radio e attacco le cuffie e sento la radio, tranquillamente con le cuffie. Io ti sto dicendo, quello lì tu praticamente ti serve un cavetto doppio, ok? Come fai con le cuffie? Ok, lo attacchi al baracchino, no? Io qua c'ho la riduzione perché l'attacco al baracchino è grande e c'ho la riduzione da piccolo a grande, no? E lo attacco al baracchino, no? E così devi fare questa cosa tu. Il doppio jack che tu hai lo attacchi al baracchino con quel trasmettitore lì. Poi accendi la colonnina, ok? La colonnina si interfaccia con lui, perché vabbè, devi pigiare i tastini che ha e si vedono uno con l'altro, ed ecco che a un certo punto tu senti il suono del baracchino in quella colonninetta che mi ha fatto vedere prima. Vedrai che funziona, perché poi è un trasmettitore Bluetooth, Giulio, alla stessa maniera funziona. E così non hai bisogno di avere le cuffie. Puoi stare in un'altra stanza e ascoltare il baracchino in un'altra stanza. Ecco cosa ti voglio dire. Vedrai che funziona. Sì, ma sicuramente funzionerà così, ma io non l'ho mai provato. Allora, la funzione di questo è radio FM, normalissimo, collegamento USB, e allo stesso tempo fa l'ascolta del telefono. Supponiamo un caso che io nel telefonino ho delle registrazioni, musica, eccetera, eccetera, no? Però il telefonino io ce l'ho lontano, non ho voglia di andare a prendere il telefonino. Prendo, interessante che il telefonino sia acceso, però interessante che sia acceso. Io con quel Bluetooth da lontano prendo e ascolto la musica che sta trasmettendo il telefonino. Mi sono spiegato? Sì, Giulio, ti sei spiegato, perché lo so. Ripeto, queste colonnine qua, come quelle c'è tu, come queste c'ho io, sono colonnine che prendono appunto l'audio del cellulare e te lo trasmettono tramite questo, tramite le cuffie, quello che vuoi, ok? Perché le cuffie hanno il ricevitore. Poi nel telefono inserisci il Bluetooth ed ecco che entra la funzione Bluetooth. Ma vabbè che funziona, tu metti il doppio jack, perché quello lì è un trasmettitore Bluetooth, e sicuramente al 100% vedrai che poi accendi la colonnina, quella colonnina si interfaccia automaticamente col trasmettitore che è collegato al baracchino e tu da giù ascolti senza bisogno di stare per forza nella stessa stanza, capito? Come ho fatto io con questo aggeggetto attuale, lo collego al baracchino, si interrompe l'audio naturalmente del baracchino e ti porti la colonnina dove vuoi, ascolti dalla colonnina. E mi sembra che ho pagato 10 euro su Amazon, questo il trasmettitore, che è piccolino, non è invasivo, non fai altro che collegare il jack al baracchino e si collega in automatico alla colonnina. Sì, è così, infatti è così. Io ne ho due, uno è rotondo, quello che ti ho mandato, l'altro ce l'ho giù nella sala, ed è quadrato, questo quadrato, e ha sempre le stesse caratteristiche, lo stesso funzionamento, uguale lì, secondo me non cambia niente. Poi ti ho mandato un'altra fotografia, quello lì è quello che uso generalmente nella macchina, in parlascolta, guardalo bene come c'è dietro, c'è una levetta, tipo, che so io, Bluetooth, cioè tipo PMR, dietro non c'è la cosa che te la attacca alla cintola, questo l'attacco io nella macchina, lo attacco alla cosa del parasole della macchina, ricevo la telefonata, io il telefono non lo prendo nemmeno in mano, non lo tocco mai, cosa faccio? Abbasso il parasole, schiaccio il pulsante, pronto? E ti rispondo direttamente da quello, e tu mi ascolti direttamente da quello, capite? Guardalo bene che ti ho mandato la fotografia. Sì, è Bluetooth per l'ascolta, sì, l'ho visto. Ma non è che se riattacchi il cavetto, lo attacchi al baracchino, ti fa la stessa funzione, con quella colonnina e paghetti, uguale. Perché la colonnina fa da ricevitore Bluetooth e quello lì fa da trasmettitore e ti porta l'audio, capito? Senza bisogno di stare forza nella stanza. Sì, poi c'è un'altra cosa, ad esempio sono in macchina per dire, no? Se voglio sentire il telefonino dalle casse della macchina, basta che io colleghi un filo con lo spinotto da 3 mm e mezzo all'autoradio e al baracchino e al telefonino, no? Ricevo la telefonata, quando tu parli io ti sento le cuffie della macchina, nella presa Hauser della radio della macchina, capite? Ti sento direttamente dalle cuffie della macchina, anziché sentirti dal telefonino ti sento direttamente dalle cuffie della macchina volendo, cioè dalle casse della macchina. Sì, lo sto guardando su Amazon, che c'è su Amazon, costa 36,24 euro. Aspetta, sto guardando le caratteristiche, la Bluetooth, il modello, comunque vedrai che è così, la voce, eccetera, eccetera. E dovrebbe avere un bel foto quando me le fa girare, vediamo un po'. Dispositivo, eccetera. E comunque tu prova con quella colonnina e tali, vedrai che funziona, attacca il jack come fai con le cuffie, né più né meno, però invece delle cuffie accendi quella colonnina e vedrai che funziona allo stesso maniera. Sì, beh certo, adesso ti mando la fotografia delle ultime cuffie che è il comparto che io uso per la musica, se voglio ascoltare per dire lo stereo, mi metto quelle cuffie, anche perché c'è il volume, cioè non in quelle cuffie lì, ti faccio vedere le cuffie quanto sono. C'è un cavo lunghissimo, lo posso attaccare alla televisione, lo posso attaccare dove voglio, ma ti dà una ricezione straordinaria, ma veramente bella, anche se usi un trasmettitorino da 3 soldi, ti fa sentire la musica in maniera impeccabile, veramente. Adesso ti mando la fotografia. Sì, c'è una durata, la batteria 10 ore e in standby fino a 7 cerico, tutti i 10. La tappa fino a 10 metri. Non mi fa vedere le fotografie, vediamo un po' di dietro. Comunque mi ha detto che c'era il jack dietro, così che puoi fare quel lavoro lì, come ti ho detto, usare la colombinetta anche. No, questo che a me serviva solo il trasmettitore, capito? Non mi serviva la colonnina, perché la colonnina io ce l'ho già, a me serviva il trasmettitore, così che ho comprato quell'apparecchietto lì che ti ho mandato in foto, che è piccolissimo, non fai altro che attaccarlo, premi il bottone, lui si accende, poi premi di nuovo e si connette alla colonnina Bluetooth, naturalmente. Poi vabbè, vedi, l'accende, c'ha la radio, la musica, normale. Così si mette in Bluetooth oppure schiaccia il pulsante e ti fa la musica, ti fa sentire che toccano molto queste colonnette qua. Dove c'è la cosa dell'aggancio della presa per la cuffia e per la ricarica, guarda, poi c'è dall'altra parte dove c'è scritto USB. Quello lo stesso, quello perché lo posso attaccare anche al computer volendo. Aspetta, allora, vedo le cuffie, ma lasciamo perdere il jack della colonnina, che quello non c'entra niente. La prima foto che mi hai mandato, quello lì dovrebbe avere anche il jack, giusto? Ma non ce l'ha? Sì che ce l'ha, poi c'è il jack, la presa del computer anche. Adesso ti dovrei mandare altra fotografia perché è spostata dall'altra parte, che così non si vede, se no. Guarda comunque le cuffie, guarda che c'è l'interruttore per aumentare il volume delle cuffie. Poi il cavo, quello lì, è di quello spiralato, no? È lunghissimo. E poi oltretutto è anche a molla, tu lo allunghi quanto ti pare, ti piace. Ho capito, sì, no, adesso sto guardando le cuffie. Sì. Prova comunque a attaccare il doppio jack al trasmettitore e a collegarlo al baracchino. Poi accendi quella colonnetta piccola che mi hai fatto vedere. E vedrai che senti l'audio alla stessa maniera di come lo senti con le cuffie. Ed è una comodità, capito? Certo che sì. Lo so, ma quello è l'audio che avevo già fatto. Attacco al baracchino, poi mi metto le cuffie e quel Bluetooth. Benissimo, ma già senza le cuffie del Bluetooth, il Bluetooth stesso mi dà una ricezione spettacolare, intanto mi aumenta di volume di un bel po', prima di tutto, senza bisogno di toccare il potenziometro del volume della radio, mi aumenta, e poi ha una ricezione semi-amplificata, non dico che è amplificata, ma semi-amplificata ce l'ha. Non dico che è come il processore quando inserisci nella radio HF eccetera eccetera, ma simile, capito? Sì, ma io sto parlando per non usare le cuffie, capito? Per non usare le cuffie, quello lì funziona, con quella colonnina là, attacchi quel trasmettitore e vedrai che funziona con quella colonnina là. C'è qualcuno che voleva entrare? Avanti. Buonasera, un saluto a tutti, sono di passaggio, stavo controllando se c'era ancora l'antenna e ho fatto spazzolata. Ciao Marco, ma cosa di passaggio, che hai sentito gli sblatternosi, tutti così dicono qui. Addirittura, oia, ciao anche a Giulio. Ciao Marco, un bel contatto dopo una marea di mesi. E allora, cosa mi racconti dopo tanto tempo? E Giulio, così tutta la giornata uguale, è un tirare a campare, dai, un po' monotona la cosa. E così, sto entrando un po' in radio, sono entrato sul 10, quando è ieri o l'altro ieri, non me lo ricordo nemmeno, ma siamo stati pochi. E quindi vabbè, dai, sono entrato a salutare, più chiaro, stavo spazzolando, c'era anche un po' di abbulotto di americani con segnaloni mai visti, però, cioè già visti, ma caspita che uno dagli Stati Uniti mi arrivi e non 9.15, quasi 9.20 modulato, chissà quanti kilowatt stanno usando, sono quelli del Super Volmi, che li trovi sull'11 e sul 9. Sì, sull'11 io li sento continuamente, in qualsiasi momento che accendo, metto sull'11 e ci sono sempre. Evidentemente è un canale che utilizzano molto loro, a ciclo continuo, senza mai smettere, è così, quello loro, perché io faccio dal 10, poi passo al 12, attraverso l'11, per cui lo sento sempre, sull'11 c'è sempre modulazione. Vai Luca. Luca non si è uscito. Luca. Come non sono uscito? Ho visto la portante, non l'ho sentito voce, dunque. Ah, mi sono staccato un attimo. Ho detto che c'è propagazione in questo periodo. Sì, c'è propagazione, ma sull'11. Guarda, costantemente più propagazione, io sento sempre, costantemente propagazione. Anche la notte, la mattina, sempre. Chissà perché, evidentemente è un canale utilizzato. Sì, vabbè, un amico di Bergamo mi aveva detto che loro modulavano tra l'11 e il 12, modulavano sempre, sempre, sempre su quel canale. Infatti mi aveva invitato quando sentivo di entrare anch'io. Ma purtroppo sono tutte lingue straniere che io non conosco, per cui non ci sono entrato mai. Avanti Marco. Sì, questa poi è propagazione lunga, cioè senti molto gli stati esteri ma non senti l'Italia come quando in estate, primavera, estate c'è la propagazione più corta. Questa è una propagazione, vabbè, che a me piace meno. Poi conta che quelli dell'11 vanno a kilowatt, cioè noi andiamo a watt, loro vanno a kilowatt, perciò arrivano così forti, ma in certi momenti è spaventoso, cioè questo modulato 9.15 con picchi 9.20, pensa, dagli Stati Uniti, figurati quanti watt sto usando, perché gli altri che parlano con lui non arrivano così forti, quello potrebbe avere vari kilowatt, va bene. Perciò sto anche dando una scaldatina all'antenna, così si asciuga, per modo di dire. Voglio dire a Luca una cosa, siccome sento state parlando di Bluetooth eccetera, Luca, praticamente quel microfono che è tanto agognato, che mi sono perso dalla Presidente, aveva questa, si vede in foto, questa piccola centralina, e tu dici come si interfaccia al baracchino nel metodo più banale del mondo, e cioè l'uscita a cuffia del baracchino lo vai a, la mandi alla centralina, l'uscita a cuffie, e lo stesso la centralina si collega alla presa microfonica. Ecco, fa tutta la centralina, il baracchino è un normale baracchino Presidente, perciò quella centralina si può adattare anche agli altri baracchini, ovviamente con la piedinatura giusta, no? E poi con quel microfono lì potevi passeggiare per casa, andare in una stanza e parlare e ascoltare. Vedi, quello è un prodotto che non capisco perché l'abbiano dismesso, non c'è più da anni, ma da nessuna parte, né in Italia, né in Europa, né negli Stati Uniti, nulla, è finito da anni. Se tu vedi, trovi una marea di siti dove c'è la foto e tutto, e vedi sempre non disponibile, sold out, discontinued, scritto così, no, io dico come lo leggo. E peccato, quella era una cosa carina, diversa al solito. Dai, va bene, riprendete, io stacco, devo fare delle cosette qua in casa, ok? Buon proseguimento di serata e ci sentiamo quando capita. Riprendi Luca. Sì, ho capito Marco, sicuramente aveva qualche millisecondo di ritardo anche per la trasmissione, appunto quando premevi il PTT. No, io l'ho preso per fare solo ascolto, capito, della trasmissione, non mi interessava. E così l'ho preso per ascoltare, ecco, come ti ho mandato nel video. Avanti Giulio. Ok, non so se sta chiudendo Marco, perché mi sono distratto un attimino, che ho fatto la fotografia, Luca, quel televisorino che adesso te la mando, quando l'ho acceso, ti faccio vedere con il suo antennino così com'è. Sì Giulio, confermo, sto staccando che devo fare delle cosette qua in casa, dai, sentiremo, vabbè, quando capita, dai, faccende permettendo. Di nuovo, buon proseguimento di serata e E riprendi Luca. Ciao a tutti, ciao. Guarda Luca la fotografia. Allora, per Luca, Luca non saprei, quello non era dichiarato, almeno non credo di averlo letto, però finché si tratta di millisecondi, poi la capsula era con esattore, non so che timbrica avesse modulando, ma metti che avesse anche una timbrica del normale President, è accettabile, cioè una volta che esce comunque chiaro, limpido, capibile, certo non è un amplificato, però mi sarebbe piaciuto averlo. Ho tergiversato appena appena, di più e niente, li hanno terminati. Sopravviverò. Di nuovo, ciao a tutti, ciao, vai Giulio. Quando Marco, ci sentiamo, se fate sentire, così cerchiamo di raggiungere di nuovo la frequenza, perché sennò qua andiamo tutti a schifio. La situazione è tribula. Vabbè, essendo a casa, che tempo si trova, no? Che problemi ci sono. Capisco che puoi avere problemi in famiglia, magari hai delle attenzioni da eseguire, eccetera, questo lo capisco, però diciamo che ogni tanto un pochino a baracchino puoi farti sentire. No, Giulio, a casa tutto bene. Dicevo, la situazione è tribula al baracchino, a quanto ho capito c'è ben poca partecipazione, dai. E vabbè, d'altronde ognuno ha cose da fare, problemi, commissioni, e così, dai, vediamo. D'altronde la 27 prima o poi è soggetto, cioè, prima o poi dovrà sparire la 27, purtroppo dico. Alla fine nuove leve non ce n'è, come vedi, perché tanto c'è, con tutta la roba informatica che c'è adesso, anche con l'applicazione Midland, vedi, tu comodamente dal polo nord al polo sud ti connetti e simula il baracchino, per dire, e quindi il baracchino non ha molto senso di esistere. Allora, avrebbe senso in condizioni di emergenza, se ci dovesse essere un crollo di una cosa impossibile, un crollo di tutta internet, di tutte le reti telefoniche, in caso di catastrofi veramente gravi, vedi, guerre mondiali, allora il baracchino tornerebbe veramente utile, però per il resto ci sono altri mezzi, dai. Va bene, chiudo, ciao, vai Luca. Sì, stavo guardando questo qua che... ma ce ne sono parecchi di quelli, Marco, a parte, vabbè, il dual mic. Guarda che te ne mando uno, guarda se questo fatto dalla fregatata, c'è sia il trasmettitore che il ricevitore. C'è il microfono che sull'altro aspetto che si attacca all'apparecchio. Vedi, allora, adesso in breve, Luca, sì, il telefono ce l'ho qua. Il dual mic, se la Midland avesse voluto fare una cosa carina, avrebbe fatto per il dual mic un accessorio, una centralina con telefono. È quella foto che ho mandato io. Guarda, apri quel sito, vedi un po' se è quello lì. Babbo, Marco, se stai chiudendo ti stanno parlando, allora, dai, ti sentiamo, dai, adesso. Oh, Luca, hai visto il televisorino? Adesso te l'ho messo sul comodino, adesso te lo faccio vedere, forse si vede anche meglio sul comodino, aspetta, sto guardando canale, studio aperto, quello qui è canale Italia 1, Italia 1, studio aperto. Sì, l'ho visto, si vede molto bene, caspita, molto molto bene si vede, la tecnologia oggi, molto bella, caspita. Sì, e sono, no, infatti, sì, anche per metterselo in macchina, nella roulotte, camper, eccetera, eccetera. Giulio, sì. No, io parlavo di monitor da mettere qua, capito? Però con altezza non vuole più alto di 25-26 cm e anche 80 di larghezza, quello non mi interessa. Però è l'altezza che ho vincolata qua. Io posso usarlo come monitor di computer, perché se no devo fare girato di fianco, capito? Nel macello, perché c'ho il 32 pollici di televisore che lo uso come appeso, che lo uso come monitor. Sì, no, ma questo andrebbe bene.